24 mattino di Alessandro Milan. Eccoci qui, le 7 e 21 minuti, cari ascoltatori, riparte una settimana di 24 mattino, siamo in diretta fino alle 9 come di consueto. E di che parliamo oggi? Beh, insomma, sono i due giorni decisivi della legislatura. Oggi vi parliamo, nel nostro sondaggio vi vogliamo chiedere che ne pensate della situazione di tensione sociale nel paese. Sono annunciate anche tante manifestazioni domani con i palazzi del potere assediati, qualcuno dice così, e anche il Presidente della Repubblica Napolitano dice c'è preoccupazione, insomma, per quello che è il clima sociale nel paese. Voi siete preoccupati, vi preoccupa il clima di tensione sociale del paese? E questa è la domanda che vi facciamo. Votate su radio24.it nell'homepage, bianco o nero ci trovate, e poi ne parleremo alle 8.30 con ospiti. Ora, come di consueto, la lettura dei giornali in edicola. In primo piano. Lunedì 13 dicembre, inevitabilmente la politica con il meno uno dal giorno della fiducia, ma già da oggi alle 9, e Radio 24 seguirà in diretta, Silvio Berlusconi parlerà al Senato. La fiducia pesa 7 voti per il Corriere. Fini, Future Libertà va all'opposizione, questa è Repubblica. Fini, l'ultima sfida al Premier per la Stampa. Mentre il giornale è duro, compagno Fini, oggi spiegaci, la BMW a scrocco, la casa di Monte Carlo e gli appalti Rai alla suocera. Fini sfida Berlusconi per il Messaggero. Contando le ore, questo per l'Unità, mentre il Sole 24 Ore è l'edizione del lunedì, il bilancio delle riforme a metà, si parla comunque della legislatura, la vigilia del voto parlamentare, tutto ciò che è stato fatto, ciò che manca in questa legislatura in base al programma di governo. Io vorrei iniziare da due storie che troviate, una sul Corriere della Sera, pagina 23, abbastanza incredibile già nel titolo: la soluzione negata perché manca la carta. La racconta Luigi Ferrarella, come di consueto dalla giustizia ci sono spaccati, storie che sono spaccati di quella che è il nostro paese. Va assolto, ma non si può. Manca la carta per farlo. È una storia che Luigi Ferrarella racconta, dettagliata, partita dal 2008, di un fotografo d'arte indagato e poi si scopre subito per errore, perché gli vengono trovate alcune foto di opere al centro delle indagini, perché opere che erano scomparse. Lui chiarisce subito la posizione fin dal dicembre 2008, e però in questi due anni cambiano vari PM, i fascicoli passano di qui, poi di là, poi di su, poi di giù, finché arrivano all'ultimo PM che dice l'archiviazione della sua posizione è in dubbio, ma manca la carta per fare la copia integrale del fascicolo e dunque non si può fare l'atto di archiviazione del reato. Sembra incredibile, ma così è. Due anni di attesa, poi la dichiarazione shock del PM, la soluzione negata perché manca la carta. Il giudice dice: non abbiamo la carta per fotocopiare gli atti e dunque archiviare il tutto. Anche questo succede in Italia, pagina 23 del Corriere della Sera. Così come un'altra storia in tempi di assunzioni e di polemiche sull'assunzione, abbiamo sentito il sindaco Alemanno nel GR, poi vedremo nella rassegna stampa, perché ancora ci sono tante polemiche sull'assunzione chiamata diretta a Roma. Ebbene, pagina 6 della Stampa, la storia di un concorso ad personam all'Agenzia delle Entrate. Flavia Amabile racconta quello che è stato ribattezzato appunto il concorso ad personam, oppure il condono dirigenziale. Si tratta di un concorso all'Agenzia delle Entrate, che poi è l'agenzia che si occupa delle nostre tasse, bandito il 29 ottobre 2010 per 175 nuovi dirigenti, perché a un mese e mezzo dall'uscita, cioè non è ancora attuato questo concorso, ma ha già collezionato un'interrogazione parlamentare, una diffida, ricorsi singoli, ricorsi per regione e la promessa di un ricorso collettivo, e poi ovviamente anche fiumi di proteste via web. Si tratta infatti di una selezione che prevede delle regole un po' strane. È un concorso per titoli e colloqui. E basta. Nessuna prova scritta, zero di zero. Niente test, neanche un quiz a domanda multipla, nulla. Insomma, basta avere un titolo di laurea, 5 anni di servizio in un'amministrazione pubblica, essere dirigenti da almeno 2 anni o facenti funzioni da almeno 5 oltre ad altri requisiti, si presenta la domanda, si fa un colloquio e si viene selezionati. Ed ecco che sono già state presentate le diffide, chi dice è un concorso ad personam, si saprà già chi otterrà questi 175 posti. E vabbè, vi invito alla lettura di questo articolo. Concorso ad personam all'Agenzia delle Entrate, ne scrive La Stampa. E adesso che facciamo? Ci fermiamo e poi meno uno al giorno del giudizio. In primo piano. Meno uno, dunque domani ci sarà il voto sulla fiducia, ma oggi già il percorso parlamentare inizia, oggi alle 9, Radio 24 seguirà tutto in diretta, alle 8.30 c'è il Consiglio dei Ministri, alle 9 Berlusconi al Senato farà il suo primo discorso, poi parlerà oggi alla Camera, poi domani ci saranno le votazioni, domani mattinata prima al Senato e poi alla Camera, dove sapete si gioca la fiducia sui voti su 1, 2, 3, 4 voti. Sta di fatto che ieri la giornata è stata segnata certamente dalla presenza di Gianfranco Fini, ospite da Lucia Annunziata. Cosa ha detto? Intanto non ci fidiamo di Berlusconi, non avrà la fiducia. Dal 15, dunque da dopodomani, Future Libertà sarà comunque all'opposizione. Poi Berlusconi vuole rimanere a Palazzo Chigi perché fino a che c'è il legittimo impedimento è vitale per lui restare lì. Insomma, un Fini che ha fatto un attacco frontale a Berlusconi. Berlusconi che, secondo alcuni giornali, nel retroscena ieri è stato ad Arcore, poi nel pomeriggio si è spostato su Roma. Secondo alcuni giornali come il Corriere della Sera, pagina 3, ha visto la trasmissione di Lucia Annunziata, una visione che lo avrebbe irritato non poco, racconta Lorenzo Fuccaro, perché si è lasciato andare a commenti del tipo sa solo ormai riempirmi di insulti, il suo obiettivo riferito a Fini è quello di eliminarmi. Sta di fatto che anche Repubblica, nonostante poi il portavoce Bonaiuti abbia smentito dicendo ha visto forse un paio di minuti dell'intervista, ma in realtà anche per Repubblica ha detto Berlusconi ormai la politica non c'entra più niente, vuol solo distruggermi, si mette pure a fare le scommesse sulla mia permanenza alla presidenza della Camera, vedremo se martedì potrà restare al suo posto oppure dovrà andare a nascondersi. Questo invece è la replica, insomma, di Berlusconi alla presenza di Lucia Annunziata. Insomma, sta di fatto che però, mentre tutto si conta sui numeri, un numero, due numeri, tre parlamentari, quattro parlamentari, sta di fatto che ci si conta anche si fa conto anche sulla possibile assenza di tre parlamentari, ne abbiamo parlato, che sono incinte e quindi chissà se si presenteranno. Sta di fatto però che quello che più aleggia sui giornali è un possibile nervosismo all'interno proprio di Future Libertà. Perché ci sono le cosiddette colombe, una su tutti è l'onorevole Moffa, l'amarezza di Moffa potrebbe astenersi, per esempio a pagina 3 del Corriere della Sera, stupito dalla durezza con cui Gianfranco Fini continua a insistere contro Silvio Berlusconi. E cosa ha detto Moffa? Prendo atto con profonda amarezza che il presidente Fini ha bollato come tardiva e inutile la mia iniziativa. L'iniziativa di Moffa era quella di tentare un patto così di riavvicinamento. E così anche Repubblica dedica a pagina 4 Future Libertà le colombe pronte allo strappo. Moffa: sono amareggiato dalla linea di Fini e i futuristi ora temono fuoriuscite. E dunque a un giorno dal voto vengono dati, per esempio, oltre a Moffa, l'avvocato consolo oppure Katia Polidori. L'avvocato consolo, che è molto amico di Fini, incontrerà questa mattina Moffa per capire se e come voterà. Katia Polidori è un'altra finiana che viene data come incerta. L'onorevole Patarino è un altro finiano che ha firmato un documento di pace di Moffa e ora dice incontreremo Fini e decideremo come votare domani. Insomma, non è proprio detto che i finiani siano compatti, anzi è tutt'altro detto. Si parla di possibile rischio di scissione o comunque possibile rischio da parte di alcuni di non votare la sfiducia, come invece dice Gianfranco Fini va fatto. dovunque troverete la conta, il pallottoliere, assenza indecisi, la fiducia si gioca su 7 voti per il Corriere della Sera, 2 interviste con i veri e propri pronostici, siamo ai pronostici. Mario Pepe del Popolo della Libertà che dice finirà di 314 o 315 a 313 per noi, mentre Granata, Finiano, Doc dice la mozione di sfiducia nostra passerà con un solo sì di scarto, con un voto. Sta di fatto che staremo a vedere, è molto duro oggi in prima pagina della stampa Luca Ricolfi, il palazzo degli incredibili. C'è qualcosa di surreale nel dibattito di questi mesi in Italia. Se provate a fare una statistica delle parole più ripetute dai giornali e televisioni, troverete che sono Berlusconi, Fini, Bocchino, Futura Libertà, fiducia, sfiducia, maggioranza, voto. Da mesi l'Italia appesa a un malsano sentimento di sospensione, incertezza, di attesa. E tutto questo per cosa? Per un voto che comunque vada servirà solo a decidere un set della partita a tennis che Berlusconi e Fini da 2 anni stanno giocando sulla pelle di tutti noi. Vista dall'esterno, ad esempio da un qualsiasi paese europeo, è una situazione ridicola, per non dire tragica. E ancora all'interno continua Ricolfi, mentre il mondo vive una delle più drammatiche crisi dei rapporti internazionali dai tempi della caduta del muro di Berlino, mentre gli esperti si dividono sulle migliori terapie da adottare, noi, e dicendo noi parlo innanzitutto dell'informazione, perdiamo ancora del tempo e dell'attenzione a interpretare una frase di Bocchino, a decodificare una battuta di Bossi, a indovinare le intenzioni di un parlamentare corteggiato, per non dire altro. Un doppio provincialismo attanaglia il discorso pubblico. Siamo provinciali perché parliamo sempre e solo dell'Italia, ma siamo provinciali anche perché con gli immensi problemi che l'Italia ha di fronte, permettiamo al nostro ceto politico di baloccarsi nei suoi giochi di palazzo, nelle sue vanità, nelle sue miserevoli rivalità personali, senza mai metterlo di fronte alle sue responsabilità vere. E poi continua Ricolfi, molto molto duro in questo commento, dal titolo Il palazzo degli incredibili, in prima pagina sulla stampa. Mentre il Sole 24 Ore cosa fa? Pagina 2 e 3. Ed è l'apertura del Sole edizione del lunedì, in questo snodo della legislatura fa il bilancio delle riforme a metà. Sicurezza e giustizia all'attivo, fisco e sviluppo al passivo. E tu questo, diciamo, il riassunto della legislatura quando il governo affronta la prova decisiva della fiducia. Il bilancio dei risultati raggiunti a metà legislatura offre dunque un quadro in chiaro scuro, ma trovate poi a pagina 2 e 3 tutto quello che sono i dettagli, dal federalismo al fisco, allo sviluppo, alle tasse, alla casa, ai servizi sociali, alle iniziative per i giovani, per il lavoro, per il patrimonio, per il sostegno a Made in Italy, le liberalizzazioni, la riorganizzazione della pubblica amministrazione. Insomma, è anche un interessante spaccato di quello che è stato fatto, di quello che non è stato ancora fatto, visto che siamo in un momento in cui potrebbe anche cadere il governo. A proposito del nostro sondaggio, verte sulla situazione di tensione che certo un po' si respira nel paese, basta vedere anche quelle che sono le manifestazioni annunciate per domani, tanto che Fiorenza Sarzanini sul Corriere della Sera, il giorno dei cortei, il centro di Roma diventa zona rossa. L'ultima riunione per mettere a punto il piano di sicurezza si svolgerà oggi, ma ormai è prevista l'interdizione di tutte le aree di una immensa zona rossa che comprende ovviamente dal Senato, Palazzo Montecitorio, Palazzo Chigi, ma ovviamente anche tutto il Pantheon, tutta la zona del centro, una immensa zona rossa che viene anche fotografata sul Corriere della Sera, tanto per capire, se voi siete di Roma siete ovviamente più pratici di me, ma è un'immensa zona rossa che sarà interdetta a tutto e a tutti, se non alle persone che per stretti motivi devono ovviamente andare alla Camera, al Senato per lavoro. Addirittura il senatore è stato chiesto di andare presto questa mattina a Palazzo Madama per non essere intercettati da eventuali manifestanti. Cioè di fare in fretta. La situazione è sicuramente una situazione molto delicata, tanto che anche il capo dello Stato dice da troppo tempo l'Italia vive in uno stato di tensione nei rapporti politici e istituzionali, una tensione che dovrebbe essere superata nell'interesse generale. Ebbene, noi vi chiediamo nel nostro sondaggio, secondo voi siete preoccupati da questo clima di tensione sociale che si respira nel paese? Domani soprattutto gli studenti sono attesi ancora in piazza a manifestare. Votate su Radio24.it, ne parleremo alle 8.30 con ospiti. La politica si interroga ancora molto, l'avete sentito il sindaco Alemanno nel nostro GR quando ha detto: se qualcuno è stato assunto illegalmente sono pronto a cacciarlo. Ma certo, sui giornali è pieno ancora di articoli di questa vicenda, delle assunzioni a chiamata diretta, ovviamente sul Messaggero soprattutto, questa che viene definita una parentopoli alla matriciana. Davide Desario, per esempio, racconta a pagina 6: questa parentopoli alla matriciana fa saltare fuori delle piccole storie di personaggi minori in società minori con stipendi minori, storie ai limiti del credibile che meriterebbero però di diventare la sceneggiatura di un film, come lo strano caso del signor Giovanni Marzi, diplomato al liceo artistico, ex rappresentante d'abbigliamento, assunto a 41 anni senza concorso come impiegato di sesto livello alla società Marco Polo e assistente del presidente Paolo Togni. Un esperto, a guardare il suo curriculum, non si direbbe diplomato appunto al liceo artistico, una conoscenza dell'inglese scolastico, nemmeno le precedenti esperienze lavorative lo aiutano, far rappresentante di abbigliamento per 3 aziende diverse. Forse la spiegazione è nella sua ultima occupazione: ha lavorato a Unire Lab, società predisposta al controllo antidoping ippico e all'anagrafe equina. È il responsabile della corrispondenza con la casa madre L'Unire, l'ente guidato in quegli anni da Franco Panzironi. E forse questo è il segreto di Marzi, perché Franco Panzironi, infatti, dopo aver lasciato L'Unire, diventa amministratore delegato di Ama SPA, dove questo signor Marzi è stato assunto. E ci sono ancora però tante storie, nomi sul Messaggero a pagina 6, figli del caposcorta di due sindaci, perché c'è anche il figlio del caposcorta di Veltroni. Questa vicenda su cui indaga la procura in realtà è una vicenda che abbraccia dal 2004 a oggi, con un'unica ipotesi di reato. E c'è un Gian Antonio Stella che voglio leggere, uno stralcio prima di andare alle informazioni sul traffico. In prima pagina del Corriere della Sera: l'aspettabile clientela. Francesco Micali, dice il curriculum sul sito web della Regione Sicilia, è il quarto anno di giurisprudenza, tira su soldi la sera nei piano bar, suona l'organo in parrocchia e il governatore lombardo, per rimediare ai disastri dell'alluvione dell'anno scorso a Giampilieri, gli ha delegato l'organizzazione della sede operativa di Messina. Auguri! Visto? Così fan tutti, dirà Gianni Alemanno. Sono giorni da quando è scoppiata la grana delle assunzioni nelle società comunali di amici, parenti, camerati, cubiste di coscia lunga, che si difende tirando in ballo il predecessore Veltroni, mille altri casi sparsi per l'Italia, e giura d'ora in poi che i controlli saranno severissimi, le selezioni rigorosissime, le punizioni durissime. Sarà l'aspettabile clientela di Gian Antonio Stella, il traffico. In primo piano. Marchionne non faccia come la FIOM. È un'intervista al leader della CISL, Raffaele Bonanni, che rilancia quello che è il tema economico, che è un po' sottotraccia, colpevolmente, perché ovviamente si parla tutto di politica, la fiducia, eccetera. Ma in realtà è il tema economico più interessante delle relazioni industriali, più interessante degli ultimi giorni, con la decisione di Marchionne di far nascere la NewCo al momento fuori da Confindustria. E tra l'altro Raffaele Bonanni fa un'intervista al Corriere della Sera a Roberto Bagnoli a pagina 18, parlando di questa svolta del Lingotto in maniera critica. Dice Bonanni: noi siamo pronti a trovare con la Fiat accordi per la massima flessibilità, garantire il funzionamento degli impianti, stoppare qualsiasi eventuale boicottaggio, ma tutto deve avvenire dentro il sistema delle regole contrattuali firmate l'anno scorso. Perché Marchionne vuole uscire da Confindustria è una radicalizzazione al contrario, pari a quella della FIOM. Non so perché voglia uscire da Confindustria. Con tutto l'interesse che abbiamo per questo investimento, non capiamo per quale motivo dovremmo ricevere uno schiaffo da lui e calci dall'altra parte. Devo essere sincero, non capisco razionalmente qual è il problema. Questo Bonanni, che poi dice: bisogna risolvere questo tormentone, così lo definisce, prima di Natale, non può andare avanti all'infinito. Che questo sia un tema molto, molto delicato, interessante e molto importante, lo certifica anche in prima pagina di Repubblica Roberto Mania, lo tsunami Marchionne che travolge i contratti, questo è un titolo di un editoriale che poi si sviluppa in un'inchiesta di un'intera pagina, pagina 11, e poi anche Giuliano Ferrara nel consueto editoriale del lunedì del Foglio dice: altro che il 14, la politica, la fiducia, questo è il suo ragionamento. Eccolo qui, il botto Marchionne arriva dall'America. La possibilità concreta di una svolta rivoluzionaria nel modo di essere del potere sociale e politico in Italia. E c'è già chi dice Marchionne in politica, ma siamo matti, in politica si decide pochissimo delle questioni di potere, giusto la politica estera, in parte quella energetica e la sicurezza. E poi conclude Giuliano Ferrara il suo commento: se tra qualche anno diventeremo un paese in cui non dico si lavora, ma si lavoricchia in modo sensato, con qualche prospettiva per il cosiddetto precariato che non sia un posto improduttivo, e in cui si guadagna e si consuma in modo proporzionale alla ricchezza sociale prodotta, con uno scambio utile tra capitale e lavoro, una crescita di cui beneficeranno la ricerca, la cultura, l'istruzione, la formazione. Ecco, non dipende tanto dal 14 dicembre, dipende dall'ipotesi che il modello americano di relazioni sociali spazzi via la nostra apparente comoda bardatura di convenienze e armonie prestabilite. Questa è politica, queste sono le rivoluzioni di cui abbiamo bisogno. Dunque, per Giuliano Ferrara, non la politica, il teatrino, anzi, aggiungo io, che a cui si assiste alla Camera e al Senato, ma la vicenda Marchionne. Abbiamo tempo per qualche segnalazione. Vi segnalo intanto dall'estero: la Svezia è sotto shock perché questo kamikaze che si è fatto saltare in piena Stoccolma, con un'intervista anche che Repubblica fa, pagina 13, a chi? Al vignettista svedese Lars Vilks, quello delle famose vignette su Maometto che furono contestate. Vive in Svezia, in una località segreta, e dice: la colpa di questo attacco non è mia, ma di chi è indulgente coi violenti. Come era prevedibile, ora molte persone gettano su di me la colpa dell'atto di terrorismo, ma il colpevole non sono io, ma chi ha sottovalutato il pericolo. È una conversazione molto interessante e intensa che vi segnalo su Repubblica. E infine una notizia sempre da Repubblica è questa: la rivincita dell'asilo nido. Ebbene sì, una ricerca portata avanti da Daniela Del Boca e Silvia Pasqua per la Fondazione Agnelli certifica che i bambini che da 0 a 3 anni vanno all'asilo nido poi vanno meglio a scuola. Se dopo l'asilo nido si va meglio a scuola. Maria Novella De Luca racconta di questa ricerca: chi ci va è più bravo, ovviamente bisogna avere strutture all'altezza, voti migliori soprattutto in italiano e matematica. Lo trovate a pagina 25 di Repubblica. Tutti i bambini che vanno da 0 a 3 anni all'asilo nido poi vanno meglio a scuola, tutto certificato in uno studio. Non mi resta che chiudere con la Gazzetta dello Sport, il rompipallone di Gnocchi. Allegri preoccupato: se il governo non otterrà la fiducia, Berlusconi, oltre a fare la formazione, vorrà anche giocare. Votate il sondaggio su radio24.it. Ci fermiamo il GR 24 mattino. L'intervista. Eccoci alle 8:21 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan. Il protagonista della nostra intervista oggi è l'onorevole Siegfried Brugger della Südtiroler Volkspartei. Buongiorno onorevole. Buongiorno a lei. Lei con l'onorevole Zeller, due voti della SVP, e si sa di sti tempi anche due voti contano molto, onorevole. Voi che fate domani? Sì, noi l'abbiamo detto da tanto tempo, in tempi non sospetti, neanche nelle ultime settimane, ma abbiamo un atteggiamento, diciamo, di voto dall'inizio di legislatura di astensione, rispettivamente quando ci sono dei provvedimenti condivisibili votiamo anche a favore e quando i provvedimenti non sono condivisibili votiamo contro. Sostanzialmente non abbiamo nessun patto di coalizione con nessuno, né con la maggioranza né con l'opposizione. Domani quindi conferma non può succedere nulla, cioè domani astensione da parte di voi due. Sì, domani astensione, anche se ci sono state speculazioni negli ultimi giorni tantissime, ma noi siamo, diciamo, un partito serio che dice per tempo e non all'occorrenza all'ultimo minuto, non cambiamo la nostra posizione e non siamo neanche sotto una qualsiasi pressione. Mi sembra di sentire un qualche riferimento a quello che sta succedendo in questi giorni alla Camera, quando dice non cambiamo idea all'ultimo momento, no? Infatti, sì. E non siamo tra quelli. Non siete tra quelli. Infatti. No, ecco, lei ha parlato di speculazioni. Noi l'abbiamo chiamata anche per questo, perché si è parlato appunto addirittura di una possibilità di è stato data così, svendere il parco dello Stelvio, o meglio spartire il parco dello Stelvio, dare più autonomia alle province, nel caso anche alla provincia di Bolzano, alla provincia di Trento, nella gestione del parco dello Stelvio in cambio del voto. No, infatti sarebbe ridicolo cioè dare un voto positivo al governo per una questione che è molto importante, però non può essere merce di scambio. Noi da tantissimi anni sosteniamo che il Parco Nazionale dello Stelvio deve essere amministrato il più possibile dalla gente che ci vive lì, perché è la gente che sa molto meglio di funzionari statali quello che è bene e non è bene per il parco. Nel frattempo ci sono anche, come sappiamo, dei grossi problemi economici, finanziari con tutti i parchi nazionali. Noi abbiamo detto, anticipando una piccola parte del federalismo fiscale, noi ci mettiamo soldi nostri per la gestione della nostra parte e anche soldi per la gestione della parte che riguarda la regione Lombardia, mentre invece la provincia di Trento metterebbe i soldi proprio per finanziare l'organizzazione e anche il personale del parco e ovviamente per gestirlo meglio, ma come si è visto, e io sono anche contento che sia così, non c'è stata nessuna delibera in Consiglio dei Ministri, nessuna legge approvata, sì. Per cui speculazione e basta, anche se noi questo obiettivo lo vogliamo non solo perseguire ma anche ottenere, ma politicamente e non come merce di scambio. Ma senta, astensione, ma voi sperate che cosa? Perché astensione vuol dire vi astenete, ma sperate che il governo vada avanti, che ci sia la fiducia, la sfiducia? Ma certo, noi siamo, diciamo, abbastanza oggettivi nel giudicare quello che è successo negli ultimi mesi in Italia e non c'è mai stata una maggioranza così solida. L'implosione del centrodestra è una cosa appunto assolutamente all'interno di questa coalizione. Noi credo che non sia giusto appunto adesso cercare di organizzarsi voti di qua e di là, ma noi ci, se vogliamo dirla in modo molto brutale, chiamiamo fuori da questa da questo tipo di politica che non ci appartiene. Noi siamo deputati che da tanti anni cerchiamo di rappresentare innanzitutto il nostro territorio, di cercare di ottenere molta autonomia per la nostra gente e per il nostro territorio, credo anche con qualche successo specifico, per cui questa è una partita che non vi piace la molto. Giochino quelli della maggioranza sostanzialmente. Dopodiché, con questa legge elettorale che io stesso considero molto molto negativa, andare al voto tra un paio di mesi vorrebbe dire sostanzialmente non cambiare granché, perché in un modo o nell'altro si rischia di trovarsi con una maggioranza in una parte del Parlamento e con un'altra eventualmente o diversa o molto meno chiara dell'altra parte, e credo che questa non sia una prospettiva, una situazione economica finanziaria abbastanza difficile, per non dire drammatica, e risvolti negativi li vedremo l'anno prossimo in modo ancora molto più chiaro. Sì, ma guardi, cambiano le responsabilità da parte di tutti. Cambiano le cose in pochi giorni, figurarsi in un paio di mesi. Intanto io la ringrazio, onorevole Brugger, e allora a domani ovviamente ci sarà questo voto. La ringrazio, buona giornata. Grazie a lei. Siegfried Brugger, voglio ricordare, onorevole, uno dei due onorevoli del Südtirol Volkspartei, domani ci ha confermato si asterranno al voto di fiducia. tra l'altro alle 9, io ricordo, Berlusconi parlerà al Senato, seguiremo in diretta, ma noi rimaniamo comunque sul tema del nostro sondaggio, perché vi parliamo del clima di tensione sociale che si respira nel paese. Il presidente Napolitano ha detto dovrebbe essere un po' stemperato questo clima di tensione perenne. Noi vi chiediamo, vi preoccupa questo clima? Sono attese anche manifestazioni, soprattutto domani si parla di una Roma blindatissima con un'immensa zona rossa che sarà inviolabile per chi non deve andare al Parlamento, alla Camera eccetera. Che ne pensate? 800 24 00 24 se volete intervenire, ma votate il nostro sondaggio su radio24.it. La domanda è questa: vi preoccupa questo clima di tensione sociale? Tra poco 24 mattino. Alle 8:33 minuti la domanda che vi poniamo oggi è questa: vi preoccupa il clima di tensione sociale che c'è nel paese? Come il presidente Napolitano ha detto anche ieri da Vienna, in Italia c'è uno stato di tensione che dura da troppo tempo. Io soy o blanco o negro, gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero? Vi invito a votare su radio24.it nell'home page. Già state votando in molti, il 57% di voi dice di sì. Intanto scopriamo dal Corriere della Sera: cordoni di sicurezza intorno alle sedi istituzionali, una questura che ha deciso, è l'anticipazione di Fiorenza Sarzanini, di blindare Roma con un'immensa zona rossa attorno al Parlamento, al Senato, le sedi dei partiti, Palazzo Chigi, Palazzo Grazioli. Sarà impossibile avvicinarsi, per chi non deve avvicinarsi per motivi di lavoro o altri motivi, perché domani sono annunciate manifestazioni di tutti i tipi, dagli studenti agli aquilani, i napoletani per i rifiuti. Vi preoccupa questo clima? Intanto ne vogliamo parlare con due intellettuali, scrittori, giornalisti. Marcello Veneziani, buongiorno, grazie buongiorno. Di aver accettato l'invito. Così scrive sul Giornale, e così saluto anche Massimo Fini del Fatto. Buongiorno, giornalista e scrittore. Veneziani, io inizierei da lei, perché lei ha definito di recente in un articolo sul Giornale il paese, leggo qualche aggettivo, incattivito, svogliato, incupito, un'Italia barbara con la bava alla bocca, dove si spinge come non accadeva da decenni a odiare il prossimo più di se stesso. Insomma, è preoccupato per questo clima che c'è? Sì, è un brutto clima che per certi versi ricorda quello degli anni 70, ma con alcune peculiari diversità, nel senso che all'epoca c'era sicuramente più violenza fisica, e questo naturalmente non possiamo rimpiangere, però c'era anche, come dire, passione ideale, contenuto civile. Adesso c'è un risentimento, un livore non accompagnato da contenuti, c'è un incattivimento che riguarda non soltanto alcune fasce militanti estreme, diciamo, della società, ma che riguarda proprio la borghesia italiana, sia quella, diciamo, che ha pulsioni progressiste, sia quella che ha pulsioni più moderate o berlusconiane, che dir si voglia. C'è un incattivimento generale, e questo credo che sia un fatto davvero preoccupante. Quindi oggi che Napolitano ha colto questo problema e lo ha rappresentato, credo che abbia fatto una esatta, diciamo, radiografia dello stato d'animo di questo paese. Ma da cosa deriva, secondo lei? Da una politica che non sa dare risposte, da una politica in perenne conflitto? Deriva innanzitutto dal vuoto della politica, che è stata occupata dal risentimento, dal rancore e dalla personalizzazione. Cioè, quando si è passati dalla leadership ideologica al partito personale, questo è avvenuto ormai da tanti anni, anche i rancori si sono fatti ad altezza d'uomo, quindi si sono personalizzati, di conseguenza tutto si è incattivito. Viviamo da troppi anni un referendum permanente pro o contro Berlusconi, che di fatto ha avvilito, diciamo, la sostanza della politica, e quindi credo che questi fattori, combinati a questo vuoto pneumatico delle idee, della qualità, della selezione della classe dirigente, producono poi questo effetto di militarizzare, diciamo, entrambi gli schieramenti. Magari vedremo tra poco anche, le chiederò che ne pensa delle manifestazioni, degli studenti sulle quali ha già scritto, delle anche manifestazioni in alcuni casi violente, in alcuni casi anche con, non so, per esempio c'è stato l'assalto a alcune librerie a Genova con alcuni libri bruciati, quello di Bruno Vespa per esempio. So che anche lei ha avuto qualche problema alla presentazione di un suo libro di recente a Napoli con qualcuno che hanno fatto? No, a Napoli no, veramente solo in passato ho avuto, sempre a Genova, Pisa e altre città, di problemi riguardanti libri che non avevano certo la valenza di quelli di Bruno Vespa. Erano libri di cultura politica, di filosofia, storia delle idee, quindi non c'era alcun legame neanche indiretto con la vita politica contemporanea. Era proprio, come dire, un accanimento verso una persona che si ritiene essere ed è effettivamente diretta. destra, insomma, era solo questo. Ma sugli studenti che hanno protestato, io francamente ho due, come dire, moti contraddittori. Cioè, da una parte mi piace romanticamente vederli salire sul tetto e avrei voluto che la loro protesta fosse, come dire, per una riforma più radicale e non per una non riforma. E questo mi pare l'aspetto un po' patologico, cioè per la prima volta o una delle prime volte per cui i giovani scendono in piazza non per chiedere il cambiamento ma per chiedere la restaurazione, il ripristino, ciò che c'era prima. E sappiamo che una scuola e università come ci sono state consegnate da questi anni non sono proprio in stato di salute raggiante. E quindi questo è l'aspetto curioso, cioè da una parte la pulsione giovanile comprensibile e a tratti anche condivisibile, dall'altra parte invece la motivazione stanca. Quindi paradossalmente io non contesto la forma di protesta come hanno fatto in tanti, ma il contenuto della protesta, e ritengo che invece la forma di protesta potesse essere anche in qualche modo, diciamo, romanticamente affascinante. Io vorrei chiedere a Massimo Fini che ne pensa di queste che ne pensa lei invece di queste proteste, e anche le manifestazioni che si annunciano e la Roma blindata per evitare che ci si avvicini anche ai cosiddetti palazzi del potere domani. Ma io lo ritengo estremamente positivo, voglio dire, non esiste più una borghesia, questo è un ceto medio impoverito che si ribella soprattutto a livello giovanile, perché i ragazzi hanno più energie certamente di quante ne possa avere un pensionato, va da sé. In quanto al blindare Roma, è un segno direi simbolico. Se tu sei costretto a blindare i palazzi del potere come fanno in Birmania, vuol dire che la politica, le istituzioni, coloro che le incarnano, si sono comportati più o meno come si comportano in Birmania, in modo diverso, nel senso che la democrazia è un sistema molto più soft nella violenza, molto più mascherato, ma in realtà la violenza c'è e come. Vediamo una delle cose, per esempio, che fa imbestialire la gente, io frequento abbastanza bar, è il fatto che questi piazzino, non è cosa di oggi, in un momento in cui tutti hanno i problemi dei figli, a mezza Italia giovanile sì, non ha lavoro, questi piazzano figli, nipoti, cognati in posti sicuri. Le chiamate, cioè, dirette, le sì, no, è ovvio che c'è, ormai l'Italia è divisa non in due fazioni politiche, è divisa in una classe politica che è un ceto di privilegiati, di aristocrazie mascherate, che hanno tutti i privilegi delle aristocrazie storiche senza averne però nemmeno gli obblighi, e un'Italia che non fa parte di questa di questo. Ma quindi che deve fare? Perché il rischio è, si dice, quest'Italia che vuole abbattere il potere con queste manifestazioni che premono sui palazzi del potere per cercare di abbatterli in maniera popolare, quasi se non ci fossero delle logiche costituzionali, delle logiche parlamentari. Ma evidentemente le logiche parlamentari hanno dimostrato che in realtà in democrazia si può fare assolutamente tutto ciò che si vuole e che noi siamo solo dei sudditi. E anche sul fatto delle violenze, finché rimangono entro questi limiti, a parte bruciare i libri, che è una cosa che non si dovrebbe fare mai, ma comunque con le manifestazioni pacifiche non si ottiene nulla. Io mi ricordo la grande manifestazione di Piazza San Giovanni organizzata da Flores d'Arcais, su un milione di persone, sulla legalità, contro le leggi ad personam, ora un milione di persone non erano tutte di sinistra, evidentemente. La sinistra può portare in piazza al massimo oggi, con le truppe camellate, 300.000 persone. È una protesta di cittadini molto forte, molto importante, e siamo stati presi in giro da destra a sinistra per non mi confonderai mica con Girotondino. Ora, manifestazioni totalmente pacifiche non servono. Il diritto, voglio concludere, il diritto di manifestare pacificamente senza armi in piazza è garantito dalla Costituzione, è il primo diritto di un cittadino, perché lì si esprime direttamente. Ecco, a furia di demonizzare queste cose, ripeto, pacifiche, poi si potevano essere naturalmente come contenuti contestate, ma di contestarle proprio come fatti in sé, Poi alla fine non ci si deve lamentare se qualcuno comincia a tirare le uova e insultare la gente per strada. Allora, io voglio salutare, stavo dicendo l'onorevole, no, Francesco Caruso, buongiorno. No, grazie. Non so, è stato onorevole, non è che si deve, se qualcuno dice sia onorevole a vita. Marchio per tutta la vita, sì. No, marchio, ma non è una cosa negativa. Comunque, è stato onorevole di Rifondazione Comunista, cosiddetto non global. Oggi che fa, credo, un dottorato di dottore di ricerca? Io sì, collaboro con l'Università di Cosenza, al Dipartimento di Sociologia. Quindi quell'università un po' in subbuglio in alcuni casi a protestare. Che ne pensa di queste manifestazioni? Sarà a Roma? È giusto cercare di dare la spallata? Che vuol dire dare una spallata? No, nessuna spallata. Penso che sia doveroso e necessario essere a Roma. Cercheremo di essere appunto migliaia di persone ad assediare simbolicamente i palazzi del potere, non per appunto sostenere Tizio Caio, ma per dare appunto un segnale di vitalità, di energia, di democrazia rispetto a questo degrado culturale, sociale e politico che in cui è immerso il nostro paese. E come fate? C'è la zona rossa, non so se l'ha già letto il Corriere, un'immensa zona rossa. È una vecchia storia questa, su cui tante trappole, tante discussioni ci sono state. Credo che, come già avvenuto negli ultimi mesi, di fronte alla forza di un movimento, è impossibile negargli il diritto elementare, l'esercizio democratico di portare la propria voce del dissenso sotto il Parlamento. È successo una settimana fa, nemmeno, e c'erano appunto anche in quel caso disposizioni affinché ciò non venisse esplicitato. Anche perché l'ultima volta hanno fatto una carica per cercare di entrare al Senato, e poi cioè, capisci che voglio dire. Via del corso con la carica, ma io credo che sia l'aspetto molto superficiale attraverso il quale leggere questa manifestazione di martedì. È il tentativo da parte di tanti soggetti sociali, non solo il movimento studentesco, non solo i precari della ricerca, non solo i sindacati come la FIOM, credo che appunto tutta una pezzo di società che si mette in movimento per cercare di riportare l'attenzione non ai litigi di palazzo, ma a quelle che sono i drammi della crisi. Sì, però voglio dire, ma io da qua voglio ripartire dopo l'informazione sul traffico, perché la domanda è che chiaramente queste manifestazioni non sono casuali nel momento in cui la politica è uno snodo cruciale della legislatura. Da qui voglio ripartire dopo l'informazione sul traffico da Marcello Veneziani a chiedere se insomma questa casualità di contemporaneità rischia di creare qualcosa di tensione che insomma non vorremmo vedere, ma tra un attimo. Yo soy o blanco o negro. Gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero. Detto che il 57% di voi ascoltatori ancora rimane, il 58% preoccupato per il clima di tensione sociale, vorrei chiedere a Marcello Veneziani, ha sentito Fini e Caruso, dicono sono manifestazioni legittime perché è legittimo e democratico il diritto di manifestare, e per richiamare anche l'attenzione al potere, alla politica blindata nei suoi palazzi sulle vere problematiche, no? che ci sono in Italia. Lei condivide oppure questa contemporaneità la vede un po' sospetta? Ma guardi, io innanzitutto distinguerei tra le manifestazioni che hanno il pieno diritto di essere espresse e gli assedi che invece hanno una connotazione ben diversa, già al di fuori della legalità. In secondo luogo mi insospettisce la coincidenza, cioè nel senso che oggi c'è bisogno di riportare i giovani in piazza, di manifestare, di far sentire, in altre parole, la società, l'Italia, insomma, che reagisce di fronte ad una operazione di palazzo, qual è quella che si sta verificando in questi giorni. Ma il fatto che avvenga proprio a ridosso di un voto di fiducia mi fa pensare che alla fine anche manifestazioni in buona fede possano essere poi utilizzate, usate soltanto per una pressione psicologica finalizzata ad una delle due minoranze di potere che si stanno contendendo in questo momento e i frutti del dominio. E quindi non mi pare, diciamo, in questo momento il tempismo molto esaltante. Un conto sarebbe appunto veder rinascere una passione civile, ideale nel nostro paese anche attraverso manifestazioni di piazza, un'altra cosa è invece assediare i palazzi, far sentire le pressioni, considerare, non so, tra traditori, coloro i quali da una parte all'altra sostengono Berlusconi e viceversa considerare dei ravveduti galantuomini coloro i quali scelgono il percorso inverso. Insomma, ecco, questa sorta di lettura, che poi viene fatta più dai giornali che dagli stessi manifestanti, può produrre in effetti un incattivimento ulteriore del paese, esposta all'esigenza naturale, vera, legittima di una protesta di piazza su tematiche di utilizzazione politica bassa, scadente, legata soltanto a lotte di potere. Sì, vorrei approfondire. Fini, quando lei ha detto con una manifestazione pacifica non si ottiene nulla, cioè cosa intende? Perché il sospetto un pochino c'è, che la tentazione di qualcuno è dire: guardate che forse Berlusconi sta cadendo, dai che forse se spingiamo tutti, facciamo delle manifestazioni, magari succede qualcosa. Non è un po' pericoloso questo come discorso? Sì, è un po' pericoloso, anche perché veniamo da anni in cui, diciamo, il berlusconismo è stato bollato soprattutto di populismo, di richiamo diretto alla piazza, ed ora usiamo le stesse formule, anzi senza nemmeno i canoni democratici, perché bene o male quel populismo mediatico si avvale del voto, che poi lo enfatizza, lo utilizza come vuole, ma comunque si avvale del voto. Sì. In questo caso siamo al populismo da piazza, all'assedio da palazzo, e questo non mi pare che sia il terreno più giusto per sconfiggere un'azione di governo. Questa è l'opinione di Veneziani. Fini, che ne pensa su questo? Ma io credo che a chi va in piazza non interessa assolutamente nulla, ripeto, a parte strumentazioni che può fare una banda sull'altra, sono due bande. L'ha detto Gianni De Michelis in un'intervista, credo che lui se ne intenda, ha detto sono due bande di potere, non interessa assolutamente nulla, ci dimentichiamo che alle ultime elezioni il 38% delle persone non ha votato, anzi il 40%, perché poi ci sono le schede delle nulle che prudentemente il Viminale non dà mai. Quindi non è una questione, cioè quello che diciamo interessa molto ai giornali, ai giornalisti, perché ormai sono tutti imbandati o da una parte o dall'altra, interessa molto meno la gente che va a protestare. La gente che va a protestare protesta per un disagio che è profondo, che peraltro non dipende solo dalla situazione economica, dipende da questioni che esulano addirittura la politica. Vediamo che non è solo in Italia, è in Inghilterra, è una questione del mondo occidentale, cioè sì, di un mondo svuotato completamente di qualunque valore, per cui quindi non credo affatto che, ripeto, chi va in piazza, non chi fa le cronache su, o i giudizi o gli editoriali su coloro che vanno in piazza, non sia certo la diatriba Berlusconi, Fini, eccetera. C'è un fatto, lo chiamava prima Veneziani, è aver personalizzato a questo modo la politica, fa sì che poi c'è un pro o contro, ovviamente la in democrazia, per la verità, e questo sistema era stato creato apposta per non personalizzare, per evitare appunto i duci e cose di questo genere. In realtà qui lo abbiamo avuto un duce di tipo mediatico, eccetera, e quindi è ovvio che poi se c'è una contrapposizione sulla persona immagino a chi si riferisca, insomma. Sono 16 anni, voglio dire, Berlusconi è andato al potere nel 94, nel 94 in Francia c'era Mitterrand, in Germania c'era Kohl, in Russia c'era Chernomyrdin e adesso non mi viene in mente. Altri esempi, però come dire che il mondo è andato avanti. Ma la gente cambia, solo in Italia, che è sempre stata una gerontocrazia quasi sovietica. Sì, ma dall'altra parte, quando Berlusconi dice e chi sarebbero i nuovi Fini, Casini, perché poi insomma si può discutere anche su questo. Ma non vuol dire che siccome lui è cattacombale e gli altri sono mezzo cattacombali, allora si debba andare avanti con questa. Intanto però mi faccia, io Francesco Caruso, a lei un po' gli va bene, perché se capitava 2 anni fa, lei dove si trovava 2 anni fa, se capitava una situazione del genere, dentro il palazzo o fuori il palazzo? Con un piede dentro e con un piede fuori, attento soprattutto. È come un po' democristiana più che rifondazione comunista come posizione. Molti, no, dipende dai punti di vista, ci sei sempre democristiani, anche nelle aree più radicali. Si percepisce questo problema della compravendita, ad esempio, molto di attualità dei deputati, in una maniera di sfiducia, diffidenza e crescente incattivimento, come dicevano prima alcuni degli ospiti, che però si traduce, questa è la cosa importante che purtroppo non viene compresa, da questi movimenti in un percorso costituente di contrasto al vuoto della democrazia attraverso forme di partecipazione dal basso, contro tanto la torsione autoritaria alla Berlusconi quanto la torsione autoritaria partitocratica, direi, dell'oligopolismo partitocratico, per cui sono sempre quelli, che ne so, un Veltroni o un Rutelli, che hanno per 20 anni rotto le scatole a sinistra, che adesso se li ritrovi a destra. E su questo appunto effettivamente un problema di crisi della democrazia si risolve dentro i palazzi del potere. In ogni caso lei domani sarà a Roma, questo è... cercheremo appunto di costruire un'alternativa a questa crisi della democrazia, non dentro gli schematismi del bipolarismo e degli equilibrismi parlamentari. Non le è certo andato via il linguaggio della politica, insomma, visto anche se non fa più parte del Parlamento. Ma io intanto mi devo fermare, la ringrazio Francesco Caruso, così come ringrazio Marcello Veneziani e Massimo Fini per essere stati con noi. Detto che sempre votate il sondaggio, ancora la percentuale, vediamo quant'è, il 58% sempre dice sì, ci preoccupa un po' il clima di tensione sociale. Io nel ringraziare Alessandro Longoni in redazione e Peter Bescapè in regia do la linea a Oscar Giannino, ma tra pochi minuti Oscar Giannino lo seguirà, Berlusconi parla al Senato, inizia così questa due giorni fiume di discorsi, votazioni, lo snodo cruciale della legislatura. Noi ci ritroviamo domattina 7:20, a domani.